lato, sia i miei, sia dell'impresa, e guarda, ti dico che abbiamo tirato le somme e bisogna che veramente qualcuno si metta la mano sulla coscienza e dica basta, ce lo possiamo mangiare solo noi e questa gente rimanere così. Non si può. Fate delle gente volte già la metà dello stipendio, va tu. Hai capito? La Cagliari, via Sassa non è arrivata una briciola. A me mi devono ancora dare il primo produzione dell'anno scorso, non me l'hanno ancora dato. Perché noi ogni 2 anni ci abbiamo un primo produzione, non è tanto. Sono 500 euro, però meglio in tasca mia che sua, capito? Però loro se li hanno dati i primi produzioni ci hanno aumentato lo stipendio di 500 euro. E io vado in Italia, mattanando il Zebedo, sempre pronto, a corria, a destra, a sinistra. No, non va bene. Sì, vabbè. Vabbè, è una cosa assurda. Sì, noi stiamo arrivando al punto come fanno i politici che si aumentano lo stipendio, tranquilli, sereni. Poi, a pagare siamo sempre noi, a pagare sempre l'operaio. I soldi sono sempre gli stessi, vai a chiedere l'aumento, ti dicono se vuoi lavorare così, se no la strada è quella. C'è proprio una cosa, un casino totale, guarda, è un casino totale. Lasciamo un attimo di bianco, sia che chiama qualcuno. Ma è così, non ci può fare nulla, né tu, né io, né nessuno. Non c'è più niente, basta. Perché io mi metto le panne di chi non ha proprio niente, capito? Perché io, grazie a Dio, non è una canuta, lo stipendio ce l'ho, è anche buono, però dico, ma questa gente come cacchio fa? Come fa? Ma se c'è un direttore generale nostro, la Cagliari piglia 110.000 euro all'anno, quasi 11.000 euro al mese. Porca miseria, lo so, alleluia. E quando minchia ci arrivo io con lo stipendio di io, e stanno c'erano 2 lire, sgridate pure, e trattate male, bisogna baciare un capo e andare, bisogna baciare un capo e andare, io, e no, ma guarda, arrivato a un certo punto, io dico una cosa, sì, lavorare giusto che ci sia lavoro, però essere schiavisti non va bene. Non va per niente bene, perché io a un certo punto io vedete via dopo la batte solo, perché a me non me ne può pregare me. Vabbè, tanto poi tutta una persona così, cazzo, siamo 2 gatti, in 2 gatti abbiamo svolto il lavoro di 10 persone e te la metti pure, andatene, va, lasciamo perdere. Non funziona così, ma hai capito? Perché tu pensi che la cosa sia diversa. Te l'ho spiegato stamattina. Lasciamo i 5 che mandiamo avanti la baracca. I 5 persone. Lasciamo che siamo in tutta la Sardegna. No, 1800. In tutti i distretti, no? Che sono 9, anzi 10. 10 distretti. Siamo 1800 persone. Capito? E nel distretto 6, qua a Sassari, del mio settore, io parlo del mio, non degli altri, siamo in 5, in Tamerlei, c'è in tutta la lista, in 5, tanti già tutti boscati, quindi, però poi vengono a dire, a fare, ma qui, ma là, ma quello che avevamo deciso non è stato fatto, facciamolo, non farlo, facciamolo, e se parliamo a singolare, io posso dire anche, vieni da me, nella mia zona, e poi mi dici cosa trovi fuori posto, perché io me lo faccio, ma chi vuole fare anche il tuo, va bene, e cazzo, pronto, ok, sì, va bene, tanto 10 minuti e mangio un boccone e poi sono di nuovo qua, ok? Sì, capolone, vai tranquillo, va, vai la carica, io ho già caricato, ma sono qua ad ascoltare, tutto acceso, vai tranquillo, va. Ok, tempo di mangiare un boccone, sono qua dopo. Sì, via, a dopo, la buona carica con tutto. Sì, grazie. Un attimo, scendo a prendere i cigarri. Appa, via. niente. Ma già partito? Sì, sì, sì. No, però dovrebbe essere partito, che ora sono adesso? 9:05 quasi. E scappa. E allora sarà partendo perché deve fare un viaggio lui. E allora si è fermato la Brescia a prendersi i cigarri. Senz'altro. E vabbè. Chiamerà, siamo qui. Ehi, è caricato? Sì. Caricato, è andato un po' di frutta. Questo va lunga. Non fa mettere stanco, non arrivi uscì. Lo so. Lo so, purtroppo tutti i chilometri che fa è dura. Meglio dura. Vabbè, Domenico. Beh, Claudio, come va, signora? Non ti devi lamentare, meglio dura che moscia. Vabbè, muove le mosce dura di più. Io non mi lamento. Perché ogni giorno che passa ne risento di più Domenico, capito? La vecchiaia Caronia. Oggi mi ha fatto un po' di chilometri nuovi. Bisogna che me la prenda anch'io la patente tua, intanto ormai sono destinato a guidare e basta. Poi ci sei vecchio tu, Claudio. Io abbi pazienza, la vettura è quella forte, importante essere sani e vegeti. E sempre cerchiamo di essere duri. Lo so, ma qui ho già fatto un caldo, dove? Per carità di Dio. Stavo così bene la settimana scorsa, a inizio settimana c'era quel metro alle 8, quel oggi ha picchiato forte, anche domani sicuramente. Avanti Antu. Purtroppo così, mi sa che la vostra tornare un po' di freschetto, mi sa che siamo al caldo, kappa. Via, riprendi domini, dove sei arrivato lui? Al Kuwait, ma il primo che stai facendo? Io sto partendo il primo adesso. Ah, kappa. Come vai così tardi, dove? Non c'è parecchia roba, stamattina è arrivato un mare di roba, allora sono arrivati un pochettino in ritardo, tutti i corrieri, si fa più tardi. Ah, kappa. Cappa di rogio, vabbè, è così. Riprendi, Ode. Lui è legato a ritiri e cose. Se rientrano tardi, tra tutto spuntinare, tutti i bollettini e i ritiri, deve caricare tutto. Preparare tutto il lavoro, tutto, quindi ci fa tardi, vabbè, non è tardi, sono 9:05. A che arrivi? Alle 10 a Olbia. 9:30 ci mi vuole, che vedi, 9:30 è il mio passo, quello là lì. Fai sganci qua e dove sganci l'altro, o scendi senza niente. No, sgancio questo, aggancio un altro, arrivo qua, posiziono, mi aggancio un altro qua, lo porto a Olbia. Ci ho un altro e torno qua. Castello, piano piano da Luca e noi, piano. Dove è stato registrato in Luca? Ehi, ce l'andrà prima. Già ci risponde subito. Un altro che non fa di ultimi, è tutto in notturno, giù. Va bene, mi hai chiamato la palla alla bocca. Un altro non fa ore. Mamma mia. Che lavori, cazzo. Non sai, caro, ho fatto tre. Ah, super la lotta. Allora, quindi esci, non me lo super stacca. Hai fatto tre? Ma è a poco. Mettivolo. Ci va. No, noi stiamo giocando non tutti i giorni, tre volte alla settimana. Quello che esce ogni ora. L'altra volta abbiamo preso 110 euro. Beh, il pane. È buono. No, ma è... Io, guarda, sono convinto che prima o poi ce la devo fare. Te lo auguro. Te lo auguro. Non manco di gentili medici. Non dico tutti i similari, ma almeno un bel po' di sciuti. Ma non è uscito neanche oggi per quello, per la notte. No, neanche oggi l'hanno beccato, sì. Neanche oggi. Caspita, è salito la cifra proprio, io. Cazzo, noi ci vede il grosso, mi dici di no. Ma sono anche troppi. Perlomeno per una persona sono anche troppi. Già va bene. Ma è... Quella tira un bel giocare adesso, capito? Dice a tira un bel. E domani giochiamo, domani è sabato, domani mattina. 5 minuti, la gioco anche io di nuovo. E vediamo risolisci, ma noi a noi la fortuna, lui lascia aperta. Avete l'idea che ci gioco paese, papà, ehi, dite. Cazzo, se puro, non vinco mai, cazzo. E vado a Coppa, ma pure la scheda la giochete, dici no. E allora se pretendete vincere se non giochete la scheda. Se non giochiamo anche la via, vedi, non li complisci. Boh. Nome, dove sei, dov'è? Fate le gallerie. Va bene. Lo stavo dicendo, una cosa me la metto bene. Vabbè, se mi ricordo te lo dico. Vai bene a tu. Ehi. Scappa Roger. Stavamo parlando domani del tuo lavoro stesso, che sei massacrante. Te ne pappi chilometri. Non so tante, no. E vabbè, chi è abituato, lui è da tanti anni che fa quello. A me mi è venuto un po' in salita perché io ero sempre fermo negli impianti da 10 anni a questa parte. Ho voluto accettare il trasferimento a Sassari, ma non pensavo che era una gestione così stressante. E anch'io come tutti i giorni, 220, 230, fatto in macchina e come andare tutti i giorni a Cagliari. Solo le cose che faccio io sono tutti un po' balorde. Senza poi le andate e ritorno all'isola, stare lì, andare e tornare da una punta all'altra. Ma vabbè, comunque. Come hai detto tu, è quello che bisogna fare domani. Non mi ricordo sempre quando abbiamo preso quello grande, il camion. è un bel viaggio, un casino abbiamo fatto, per carità. E noi ci viaggiava per la pagnotta, perché quello era, più viaggiavi, più consegnavi, più guadagnavi. So che era sempre una miseria. Qualcosa appunto di trasporti, ma qualcosa si riabbandona alla gara. cosa si può buttare giù. E io ho sbagliato a mollare in fretta, perché ho chiuso da poco io, perché poi avevamo tolto la tassa, quindi pagavo solo l'iscrizione alla Camera di Commercio e basta. Però ho fatto troppo in fretta a chiuderla, se no altrimenti ci avrei buttato 5-6 macchine lì a, dentro lì dove sei tu e alle sedia, avrei fatto lavorare verso le sedie e sarei stato meglio anche io. Ma infatti se non c'è tanto inutile, anche se fa una cooperativa come i soci lavoratori ci sono sempre tante spese, gasolio, gomme, danni, tutta l'amministrazione eccetera, non le faccio. Infatti l'ho detto io a questo mio amico, già lo conosci, ma non fa. No, vuol dire ci riposiamo, va, tanto ancora te fugaci, ancora 10 anni e poi ce la prendo tutti nel culo, vai anche. E così, ti ha pagato e adesso è difficile la lezione, adesso è una cosa che è solo rischio, ma rischiare per i tempi che siamo è dura. Ma io a quei tempi lì non è che avevo rischiato più di tanto, avevo fatto un business, avevo qualche lira, avevo preso prima inizialmente due furgoni che facevano la città, poi ne avevo preso un altro che faceva i medicinali o di farma, e poi un altro ancora, avevo quattro furgoni, due in di farma e uno all'attracco e uno all'SDA, e poi avevo quel camion che facevamo il collettame grosso con Domenico. Però sinceramente quelli che lavoravano non mi hanno mai creato problemi. C'era Andrea Pedoni, l'ho visto da poco, più l'ho visto Andrea Domenico. Signor Guerremmo in Vaggio. E Andrea si è messo a conto suo. E a conto suo c'è un furgone, fa i ritiri, consegne, gira un po' tutto da solo. Ho detto che è ancora, si è stancato, dice qua, quello io facevo e quello faccio, quando c'ho tanto per me, non me ne frega niente, non devo ampliare niente, infatti ho lavorato una dritta perché c'era un apporto con Candy Pharma e anche lì hanno costituito una cooperativa di trasporti, e quindi niente, non si può più fare niente, ma vorrei tutto assicurare che c'era questa cosa se volevo partecipare, ma avevo già chiuso la società, quindi niente. Ok, no, me, io non ti intendo più, me, non sono Antonio, ma... No, io lo stesso, ho sentito l'ultimo passaggio, pio, io ti saluto, dove dai? Fate la buona, seguo i più tardi, se no tutte le, alle prossime, dai. Avanti con lei, io non lo sento, lo saluto adesso. Mi toglio me. Buona, buon tutto, buon rientro, buon tutto e buon trabocco. Ci si sente magari domani, anzi, ci si sente lunedì. Se ci siamo per il secondo, non credo, cioè, se sta scendendo, non credo. A quell'ora sono già a letto, magari se Antonio non c'ha sonno, che si vuole trattenere a farti compagnia, lo sentirai dopo, se no ci sentiamo lunedì, ciao a lunedì domani. Come è salito il QRM, mi sa che c'è un più radio, perché il 430 ne ha di meno di QRM, su 440 gatto. Sempre QRM, è vero, a voi mi alzate la mani a allucinate veramente, io tu siamo arrivati a 30 gradi stasera, io c'avevo 27 in macchina quando ho sbarcato, Torres, quindi, ed era di 17,5, 26 gradi c'era, perciò immagino che allora di punta abbiamo raggiunto il 30, forse anche di più. Va bene, va bene, l'importante è che manca un poco di vestito, basta notte da voi. A domani vi pensiamo. Sì. Ma lui era già arrivato a secondo immediato, se voleva attorno o oltre. No, già oltre. Ah, ecco. Sì, perché io fino a mese io una volta l'ho sentito, anche dopo lì dove avevo ucciso quei carabinieri, e poi ho iniziato a perderlo. Però penso che sia stato oltre. C'è qua Rem, è proprio zero, a uno. Tranquillo, lo sentiamo sino a Berchita, non c'è problema, solo lui non c'ha lineare, no, poca potenza, ma magari lui ci ascolta, capito? Però c'è un bel di quel reno, ma che fa delle visioni? Lottite, no, cavalli lottite, stavamo in cazzo. Ah, sono qua. Non posso stare con la porta chiusa, non mi gira l'aria. Cappa. No, ti volevo dire che anche stasera abbiamo telefonato quel numero che mi hai dato, ma non rispondeva. Allora abbiamo deciso, mio compare, domani mattina ci facciamo un saltino e andiamo direttamente a destinazione. Se c'è, se non c'è, pazienza. Domani sera sono a cena qua, quindi glielo dico io. Dice, no, ti chiamo, ti ho il numero di telefono di lei. Oggi lunedì, se non ci sono domani, lunedì ci fate un salto direttamente. Adesso vediamo, se ci sono domani mattina facciamo un salto lunedì e via, dai. Va bene, lo stavo dicendo, mi metto più, provo io una cosa, ma non mi ricordo manco se mi spaccio, no, proprio un gabbo è andato, già sveglio, è vero, con tutto l'amore che fai, già lo credo. Pagata, purtroppo così funzionano così. Io gli appagare, dai, io volevo che... Va vinto, amore. Se tu vedi che va, hai visto, È così. È così. No, ma era una cosa... Non molto importante, ma devo dire una cosa, ma me la metto. Niente. Ah, hai detto tutto il casino, ho fatto i fornitori e poi non hanno chiuso. Sono andato io, ho fatto il pieno, te l'ho detto. Vabbè, il pieno lo cerco io nel motorino mio. E sono domani mattina passo lì via Giorgia Spumi. C'è quello di quello della pista di me. Mi sono provato, no, ma non devo mandarci di sciopero, ma perché non l'ha sentito che non è bloccato lo sciopero? Oh, è piazzini, mi vado a me, ma a me piazzini. È tutto un bluff per guadagnare, per svuotare le cisterne, capito? Studina sono qua, se no che via Milano era via la gola, mi trae rotonda. E domani è ancora aperto, non c'è bagaglio. Sono più a gasolio che a benzina, però c'è la benzina senza piombo, non molta, ma ci c'era. Infatti io ho visto l'autobot che stava rifornendo e quindi l'ho messa nella mia, con la mia figlia sono a benzina, le macchine, anche con le mie voci, e quindi, ma è tutto un bluff, già si sa via, sempre così fanno, una volta lo stesso, nelle... Avevamo ancora la cisterna. Tu tutti un mazzano, tutte le forme di macchine. Tutti in fila, la mia si è vinti. E poi domani era tutto aperto. Manco per il tempo che ho perso. Sì, sì, sì, ma te, e lo sì. Io avrei detto che sono male che dovevo andare a chiudere 3 giorni. Mi è stato l'avvocato, bomba, mi pare che voi siete dentro una serie robe. Voi lo fate per vendere carburante, come il discorso del casco. Prima è obbligatorio per i 50, poi l'avete fatto, l'hanno fatto obbligatorio per i 50. È tutto commercio, Fabi, è tutto commercio, non abbiamo da fare un buco, scusate te. Se poi si è obbligatorio pure in bicicletta, va un casco. Il casco con la bicicletta ci vuole, quindi non è che sia, ma è anche giusto, è una protezione, va bene. Ma è sempre un commercio, capite? Qualsiasi cosa lo impongo è sempre un commercio, per tutti, per i commercianti e per lo Stato. C'è sempre tassa di quello, tassa di quell'altro, ma ci vuole ammazzare. La mia moglie l'ha fatto oggi, un volo non pagato, allora vai due a cercare retribute. Dal 2007, io mai, non so se mi sono veramente dimenticato, però non troviamo ricevuto, e praticamente da ripagare. È arrivata l'Equitalia, cazzo, 89 euro di bollo, cazzo, 24 euro di interessi, più, no, di mora più 4 euro di interessi. Esaurito di zinco di 5 anni. avuto nessun problema. Sono andato all'ufficio delle entrate, ho presentato i miei documenti, la fotocopia e il libretto di quella macchina, perché mi faccio sempre fotocopie, la fotocopia del CDP e la procura di vendita, come io l'avevo passata all'Audi. E hanno immediatamente, subito dopo, dice: scusi, ma noi abbiamo fatto l'antestazione al vecchio proprietario. Ma io gli ho detto: sì, sì, gli ho fatto subito i documenti, tutto, sia del PRA, come avevo fatto la cessazione, e sia della procura di vendita che mi aveva rilasciato l'Audi a Germancar. Hanno subito voltolato la multa loro, ma era, non mi ricordo, c'era 3-4 anni fa, era un sacco di soldi, più di 1000 euro era. Non scherzo, no. C'è una mola lì, ogni giorno che passa è un casino, lo so. Sì, ma credo nel discorso l'avevo fatto, che hanno trasferito l'ufficio a un'altra parte, capito? E non so, quello che c'era prima io pagavo non c'è più, capito? Hanno dato tutto in mano a quest'altro, sempre la filiale della Saio, però un'altra agenzia. E tu ne hai mai dato di te, e ho detto, siccome io lo conoscevo da vecchia data, perché cazzo io parlo dell'età dei motorini, io l'avevo assicurato motorino, capito, non c'era neanche l'obbligo della targa, nel casco e niente, no? Però per sicurezza me lo assicuravo in caso di sinistra e cosa. E dice, ma si è fatto ritirare, questo deve ritirare, boh, ha volato tutto, ha dato le ridi in mano a un'altra persona, capito? Ma un tramite, senza avvertimento, a dire, beh, gli si è aperto dei crediti, sto volando tutto, do in mano a loro, a un'altra agenzia, cioè a un succursale, diciamo, nulla, non ha avvertito niente. Sì, aspettavo sempre questo bollino, ma come deve mai carettere di rinnovare questa... Ah, che bene, mi sono... un po'... come si dice... mi è venuto il dubbio, ho detto, ma non è che dici... E manco ho detto la parola, vado lì, non c'era più un picciolino. Ho detto, mica, come sono andato a finire questo? Girando, mentre sono usciti, non loro, dati da un altro, a un'altra agenzia, sempre della nostra, la succursale. E via vento, mi dice, ragazzi, via vento, ma io pagavo la via Parigi. E dice, ma quella via Parigi non c'è più, ho dovuto mollare, boom, ma non so che cosa. E ora come la mettiamo? E non dice, ah, deve pagare la mora perché sta pagando la sicurezza della città, io la mora devo pagare. Ma vai a massa, dice, non pago proprio nulla. Ah, se vedi una cosa va, mi date la distretta perché io non pago più niente. E poi me l'ha andata da loro. Ci hanno fatto di poco ciò che Garuzzi e compagnia. Hai capito, la compagnia più grossa è e più giochi fanno. No, io sono 30, una trentina d'anni con la fondiaria SAI, abbiamo fatto la fusione, però non mi ha mai creato problemi. Una macchina c'ho, la fondiaria SAI, anzi due macchine, la mia invece è l'AXA, mia Lombardo, è un bel grosso, molto in macchina, dice. Pago molto, ho molto poco rispetto alla mia moglie e mia figlia. Vabbè, assicurazioni, se le trovi buone ti possono trattare bene, se le trovi di quelle ronfie alla fine ti castagnano, capito? Tu lui ci devi guadagnare sempre Eddi. Devono guadagnare solo loro, gli altri non devono guadagnare niente a tu. E quindi è così un po' per tutti. Vabbè, pazienza, tanto ha pagato con guarda sempre noi, quindi è inutile che andiamo a girare, sempre a pagare ci tocca a me. Sì, è vero che ci tocca sempre pagare, ma che te ogni tanto le aumenti, aumenta per questo, aumenta per l'altro, le bimbe, le banche, lei è possibile, ogni 6 mesi, ogni 4 mesi, ogni 3 mesi deve aumentare la niente. Capita, stavo sempre aumentando, ma poi la pippina è successo per il patatracchi di Toledo, che loro se ne sono andati da lì, e bomba, sono andato là, e tale, vabbè, vedi una cosa, io l'ho disdetta, l'ho comprato di minuto. E infatti era proprio ancora quella che ha detto tu, la fondaria assai, hai capito? Perché prima era assai assicurazione, e poi è passata la fondaria assai. Ci hanno fatto la fusione con la fondiaria. Anche la mia prima era, poi ho visto, mi hanno mandato la lettera, che avevano cambiato denominazione sociale. Vabbè. Io sono in via Manno, con Maria Paola Canopoli, ma ci sono una vita, ho iniziato e si chiamava Cilas, quindi sono più di 30 anni, sempre lì, con 2 macchine, però la terza l'ho assicurata là, c'era la moto assicurata lì e quindi ho assicurato anche la macchina. Ma parlo molto meno all'Axia che alla fondiaria, però non rompo le scarpe, avevano toccato la macchina, mia moglie, gli appassi li avevano distrutta, uno lì all'incrocio ha smandato, era parcheggiata la mia moglie, gli ha schiacciata dietro, e quindi poi si sono fatto obiezioni e portata da Roberto, l'aveva sistemata. Però ti ripeto, l'assicurazione c'è come te di dolore, ho capito, quando ce li hai li devi dare tu, allora va bene, ma se te devono dare loro, cazzo, poco se rompi il palle. Infatti è proprio così, se te ne devo dare ti puoi aspettare, ma se devi darle tu, io proprio ti rompo la scatola. E vabbè, sai così, Anto, che c'è stato un periodo che le assicurazioni ci stavano rimettendo, ma non a causa di gente seria, eccetera, di truffe fatte da incidenti non veri. Quindi a un certo punto si sono accorti che molte cose non andavano bene, allora hanno iniziato a fare controperizie, perché tu fai la denuncia, sì, ho toccato la macchina a Claudio, va bene, la sua macchina è quella, è questa, va bene, ti misurano, vogliono vedere tutto, poi fanno la controperizia anche all'altro, stanno lavorando così i periti, gli ispettori stanno girando per vedere tutto, se le agenzie funzionano bene o meno. Era una mezza truffa, non so quanti miliardi hanno evaso assicurazioni grosse proprio per truffe di incidenti stradali, c'erano risarcimenti allucinanti, capito? Tamponamenti mai esistiti, quindi le assicurazioni, sai, come i tamponamenti lì ci guadagnano un sacco di soldi, e un sacco di cose non erano vere. Perciò sono diventati diffidenti anche loro, come le finanziarie, no? Finanziarie prima, portare la busta a paga, codice fiscale, documento di identità, quanto le serve, 20.000, perfetto, a posto. Adesso col cazzo te danno i soldi, adesso vogliamo garanzie. Cosa vai a casa? Non c'è problema. Noi facciamo l'ipoteca sulla casa e ti diamo 20.000 euro. La casa quanto vai? 200.000 euro. Non è fottuto dai. Se tu non hai garanzie, non ti danno niente. Devi essere proprio molto alto in busta paga e essere una persona anche conosciuta, perché sono molto ma molto diffidenti. Tanto stavo leggendo l'altro giorno, anzi ne stavano parlando a Limi, manda Rai 3, ci sono finanziarie che sono conosciutissime che hanno dichiarato fallimento, perché non so quanti miliardi dovevano rientrare con le banche, proprio a chi l'hanno bruciati, capito? Uno che non c'è niente da perdere, non è a tutti nuda, tu c'hai una macchina da 1.000 euro, 2.000 euro, e come cazzo fa la prendere? Una volta la macchina si superato i 5 anni, non se ne fanno niente, perché non ha più valore. Quindi si attaccano gli mutui, si attaccano gli mutui, anche perché per farti un'oggezione di pagamento e affrontare un processo loro devono mettere dei quattrini. Per farti un pignoramento devono mettere dei quattrini, un pignoramento costa. E quindi non è che l'affrontano così. Prima guardano, beh, cosa c'è, cosa non c'è, ma se non c'è niente l'hanno presa nel culo. Sì, sì, sì, è proprio vero. Sì, oggi voglio un sacco di garanzie, se sei pensionato, se hai un lavoro stabile, se sei assicurato, boom, va, un sacco di casini. Infatti, non ne vale la pena neanche prendere il prestito perché è un casino, la verità si dica. E nonostante che tutti oggi mandano le lettere, se voglio prendere, ma biglietti mirai, devono mandare solo le... Lascia di mirare queste cose, ma vai di Dio. Tanto una guardia e te lo danno e lo devo restituire il dubbio. Ehi, quanto già non sono ancora gli interessi. Ma si tira i redi. Io mi sento l'ho fatto giù. Era proprio per quello, capito? Che la manca non tira niente. Metti lì a fare che cosa? Allora si costa te vestiti lisciuti. Per forza. Perché li metti lì e non tirano niente. Nulla, ma se cazzo mi devi dare tu, a me si ti domanda negli interessi, cazzo mio, fido, stiamo fido del doppio dello stipendio, cazzo c'è un interesse pazzesco, ma non me l'avevano proposto, detto, non mi serve niente a me, non ho fatto proprio nulla, capito, non fa, perché una volta l'avevo fatto, sto facendo dei lavori, ma detto vabbè, anziché prenderli, uso quello, sì. Caso la natura mi dica, ma è tu casa tua nel doppio. E quindi mai più. E quindi niente. Poi viene vestito e basta, in appartamento, in terreni, campagne e cose così. Ma no, lasciarli in macchina non conviene. Uno perché te li mangi. Capito? C'è sempre, sa che ce li hai, vai lì e prendi, vai lì e prendi, vai lì e prendi, alla fine c'è più un cazzo. Quindi. Conviene sempre investirli, non c'è niente da fare, quello infatti che non ho fatto nulla, so poco quando morte verso c'è con soldi, niente, togli tutto e via, non lasciamo proprio niente, perché altrimenti alla fine vai lì e stai sempre prendendo, non l'abbiamo investiti, l'ho visto tutto, abbiamo fatto niente pure con i banchi, con i bolli, le stesse cose. Deve aprire gli occhi, deve essere molto molto attivo perché sennò è un casotto, è vero, è un casotto e lì ti spillano tutto quello che hai, non costano lì a pensare 4 volte. No. Non so quanti anni c'erano, c'è di mia socia la posta, vai dei anni. Allora da bucane tutto, ha chiamato a casa la Eti, fa uno schifo fatto, non va bene, non va assolutamente bene, ti ripeto, ma se ne devi dare a loro, avete sia gran panina che sui fatti, però se ne dare a loro l'1%, cazzo, 50 milioni l'ho dato l'1%, ma non ti picchi. È proprio vero, è così, è così. Purtroppo funziona così. Gappa, e io te l'avevo fatto, di sabbia. Stava nel mazzo, io l'avevo fatto quella. Tu non c'hai stazione lì, io ne uno davanti e uno dietro. Allora, quello dietro sono il 21 e il 33. Quello davanti sono il 40, quindi diciamo che tengo buono questo, quindi sono le 10 meno 20, 10 meno 20, quando ci abbiamo 50 di tempo faccio vedere la moto che ho preso, la moto, a volte massimo l'ho venduto, l'ho preso il nuovo Hornet 1000, oh, bello. stava gonfiando le balle, sto cazzo di scritto, ci ho abituato a inviare le marce a me, anche se era un bullide quella, era un bullide vero e proprio, molto scooter così veloce non l'avevo mai visto io. Mi piace il... io ce l'avevo già allora, quella del 600, mi ci faccio un 1000 mollo nuovo, bellissimo, infatti stoppano l'asciugazione proprio per quello, perché ho fatto il cambio, dice che da 500 a 1000 non cambia niente, sì sì, che fai idea una cilindrata, roba di cavallo di vanissa, cazzo pare che abbia una macchina. Sì, vabbè, 1000 sì. C'è ben poca differenza, posso dire, dal 900 al 1000 è un discorso, ma da 600 al 1000 c'è parecchia differenza. Che è differenza lì, dove? Un bel ce n'è tu, un bel. Parecchia. E vabbè, avevo sino a dicembre e poi la blocco, tanto non la uso, poi prossima estate si vedrà. No, in inverno in moto non sono mai uscito, non uscirò mai, uno perché c'è freddo, non me devo ammalare, anche se mi hanno regalato la tuta intera, molto bella, direttamente con gli stivali incorporati, tutto, tipo quelli della corsa. Lì puoi fare qualche giro, qualche domenica d'inverno così, ma poi per i motori adulti è uno perché c'è la strada bagnata, io a chi mi cago la moto, tocca buona di palla ed è sempre pericoloso, la moto c'è un sacco di potenza, ma c'è il gas di scivolto leggere, sì, quello è vero, quella trazione come accide di l'asfalto mi è asciutto a poca aderenza, lì un attimo a pattinare ci tiene dal culo, Ehi, cioè è poco potente, sì. Tu hai 600, c'era 110 cavalli, questo ne ha 180. E poi da anche sono del parere che la moto deve essere a marci, no, quando davamo gli diavoli i motorini, lui era abituato a portare le moto a marcia, avevano più riprese, più potenza, più tutto, gli scooter vari tutti, nulla, sono dei ferri vecchi, messi lì, giusto per numero, poi alla più fine le moto a marcia sono le moto a marcia, è tutt'altro di essere. Troppo bello, due marmitte, c'è un girabile laterale, non è di quelle basse che tiri, no, è normale, è come il 600 solo che il 1000, molto più grosso, c'è due radiatori, non piccolo grande, e 2,95 fa, 2,95, ma non arrivi mai, però immaginate già di cosa va, se tu vai la coda, lì sarà quella la smart dietro, sono quelle larghe larghe, se più larga di chi c'è? Sì, io vedo una bella tenuta di strada, io la dovevo già, poi 1000 vicinale, 1000-1002 sono cavalli, da paura. No, ma bella, bianca, con la sera nera. Molto bello. E vabbè. Adesso per quest'anno è andata così. Prossimo anno. Ci organizziamo bene. Ok. Quando vuoi intorno non c'è problema, io lo sai. Ma ormai ci capiamo al volo. Non c'è problema. Tanto mi domani mi sa che una giornata di quella allucinante di nuovo, cazzo di cose, qua ce la faccio, sai che metto gli occhiali, mi fanno il salone, e me ne inizio a leggere rapportini, cazzo, non lo mani, non lo vedi, o fare quelli, o fare tutta quella roba lì. Che ho fatto oggi giù all'isola, e devo ripassare tutto quel in disegno con l'apilografo, perché altrimenti non si vede più, già ci vedeva poco. Si è un po' scolorito tenendolo in macchina col sole per l'estate. Domani al tecnico me lo passo con la penna, quella per i disegni, con la punta fine, così si vede meglio, mi scrivo tutte le cose. E ci vedo meno di prima a casa. Va bene, dai, così. Ti lascio, dai. Così ti faccio delle commissioni che devi fare. Va bene, dai, già, ci sentiamo più avanti. Passa buonanotte a te, guarda. E ci riascoltiamo a domani se coincide. O quando sarà, dai, non c'è problema. Fai un comodo vocale, che mi dirà cosa devi fare. Almeno te le bruci anche. E tutto cappa, dai. Ehi, Arturo, dai, me ne vado un po' di là. Me ne lascio un po' da lì, tanto. Fra un'ora giù qui a Cucato. Ciao, Arturo, ci aggiorniamo domani. Tanto domani non ci vediamo. E poi vediamo un po'. Io domenica sono di servizio. Se parto col piede giusto, io a metà mattinata faccio vedere così 10:30. Dovrei essere già in zona tiro. Vediamo, possiamo andarci, possiamo si fa tardi. Però passare, andare a prenderci un aperitivo per tale scene. Non ci costa niente, e poi ti riporto giù, non c'è problema. Ci aggiorniamo al limite domenica, vai. E poi ci sentiamo domani sera, tanto io sono a casa. Ci sentiamo alla radio. Ciao Antonio, grazie delle due chiacchiere, buonanotte, buon tutto, saluti a casa. Ci aggiorniamo là domani, ok? Eia, scappa, non c'è problema, ci aggiorniamo domani. Scappa, buonanotte, grazie anche a te delle due chiacchiere. Buonanotte, buon tutto, saluta guerra familiare e tutta domani. Ciao ciao, buonanotte. Ciao Antonio, ciao, buonanotte, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.